Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, torniamo a parlare di sicurezza stradale stasera. Abbiamo parlato spesso di quanto si sta muovendo in termini di tecnologie futuribili, ma sta di fatto che oggi esistono già una serie di sistemi anche molto sofisticati per rendere più sicure le nostre autovetture. Per la gran parte però si nascondono sotto acronimi che, insomma, non addetto ai lavori dicono poco o nulla. Stasera allora cerchiamo di fare un po' di chiarezza su quali sono i più efficaci e soprattutto su come funzionano, con l'aiuto di Andrea Montermi, che è pilota da corsa con alle spalle un bel po' di titoli nei vari campionati GT, campionato FIA International, di cui credo sia campione in carica, GT Open, e ha anche alcuni anni di esperienza in Formula 1. Ma soprattutto Andrea Montermini è molto impegnato in un progetto di Sara Assicurazioni, Sara Safe Factor, per diffondere nelle scuole proprio la cultura della sicurezza stradale. Buonasera Montermini. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Dunque, intanto una battuta, ma veramente velocissima. Nel 2013, con questo progetto avete incontrato 8.000 alunni, più di metà li ha incontrati lei. Le sembrano sensibili intanto a questo problema? Ci sentono? Ogni anno sempre di più. Abbiamo incontrato più di 40.000 ragazzi in tutti questi anni ed è tra l'altro uno dei progetti più belli, Sara Safe Factor, con patrocinio dell'ACI Sport, e troviamo un coinvolgimento sempre superiore, perché comunque con tutto quello che se ne parla oggi tra i giornali, la televisione eccetera, questo è sicuramente un problema sempre più attuale. Dunque Montermini, dicevamo, tante sigle poco chiare, quali sono allora le tecnologie più importanti per la sicurezza che noi oggi già troviamo a bordo delle nostre auto? Beh, oggi diciamo così, possiamo raggrupparle a un paio di fatto, perché ogni casa costruttrice ha la sua, in diversi modi, in diverse maniere, alla fine tutte arrivano più o meno a fare le cose simili, insomma, no? La fisica è quella lì. Che è la più importante, esatto. Diciamo che la più importante è sicuramente la ABS, e l'altro è l'ASP oppure DSC, delle sigle che magari qualcuno dice: ma cosa stanno dicendo? Vabbè, la ABS. Loro proviamo a descrivere molto brevemente: anti-lock brake system, il sistema che evita il bloccaggio delle ruote in fase di frenata, una cosa importantissima che ormai è un sistema esistente su tutte le automobili. Ecco, però qualcuno non ha capito bene come funziona. Mi diceva che a volte la gente ha la tendenza a togliere il piede quando sente entrare l'ABS, perché il veicolo fa delle specie di sobbalzi, no? Frena a scatti, si sente questa roba. Nei corsi di guida sicura, nei corsi di guida sportiva, anche che si fanno tutti i giorni, vediamo degli allievi che quando arrivano a fare la prova di frenata d'emergenza sentono andare in azione l'ABS, che di fatto sul pedale praticamente sentiamo uno scalciare, no? Sul nostro piede, moltissimi tolgono la pressione del piede dal freno, che è una cosa ovviamente sbagliata, perché certo, se abbiamo un ostacolo davanti, se togliamo la pressione dal freno siamo sicuri che lo fa. Ecco, l'ABS serve proprio a evitare di togliere la pressione dal freno e contemporaneamente evitare che le ruote si blocchino allungando la frenata, no? Con questa lunga scivolata. Esatto, e soprattutto poter utilizzare poi lo sterzo per evitare l'ostacolo, perché se non bloccano le ruote ovviamente io posso anche usare lo sterzo. Perfetto. L'altro sistema è l'ASP o DSC, che ogni caso, diciamo adesso le due sigle più usate, l'ASP che è l'Electronic Stability Program, oppure il DSC che è il Dynamic Stability Control. Cosiddetto controllo di stabilità, no? Che cosa fa? Di fatto cosa succede? Io sto facendo una curva, sono arrivato troppo forte magari, il sistema comincia a leggere un movimento strano o un bloccaggio delle ruote, una imbardata della vettura stessa, per cui comincia ad agire tra controllo del motore, cioè quanto gas è stato dato, e sui freni, magari freno più una ruota piuttosto che un'altra, per riportare il più possibile, ovviamente la fisica non si può battere, per riportare il più possibile la vettura nella sua traiettoria più possibile normale. Ecco, è importante appunto spiegare che questi sistemi non è che rendono infallibili queste vetture, no? È una delle cose più brutte che invece moltissima gente pensa. Si sente normalmente al bar dire: ah, la mia macchina ha l'ESP piuttosto che il DSC, quindi io la mia macchina ha tanta stabilità. In realtà non è vero, perché la stabilità è quella lì dell'auto. È quella che ha la macchina. Se ha una Ferrari piuttosto che una super sportiva, avrà una stabilità, un'utilitaria ne avrà un'altra. Il mio sistema di controllo fa sì che il pilota possa diventare un pilota più bravo, più vicino a quello di un professionista, però sempre nei limiti delle capacità del veicolo, diciamo così. Esatto. Grazie Andrea Montermini. A voi, buona serata.